Da metà ottobre dello scorso anno, il Museo del Patrimonio Industriale di Bologna espone una mostra che esplica le sue intenzioni già nel titolo: le moto bolognesi degli anni 1950-1960, questo decennio che va immediatamente dopo la metà del Novecento. La motocicletta incontra l'automobile, un titolo diciamo supplementare. Siamo in linea col dottor Antonio Campigotto per sapere qualcosa di più specifico e per invitare gli ascoltatori della nostra radio ad approfittare di un sabato o di una domenica per andare in via della Beverara 123 a Bologna a visitare questa esposizione. Buon pomeriggio, dottor Campigotto, grazie intanto per la sua disponibilità. Buon pomeriggio a voi e agli ascoltatori. Questo di quest'anno non è un episodio, in quanto è già dal lontano 2003 che il Museo del Patrimonio Industriale ha cominciato un'esposizione storica divisa per periodi grosso modo di 10-15 anni, un'esposizione che adesso è giunta al settimo capitolo. Esatto. L'industria motociclistica è stata uno dei settori più importanti delle attività economico-produttive della nostra città e del nostro territorio. Prima dell'avvento del secondo dopoguerra dell'industria legata al confezionamento, al packaging, che adesso è del settore trainante, è stata la motoristica che ha informato l'industria locale, dando una notorietà che era nazionale. Un numero incredibile di produttori di moto finite, noi ne abbiamo censite dall'inizio del secolo fino al 1970 un centinaio, che poi nascono, vivono alcuni anni oppure si durano alcuni decenni, insomma adesso è rimasto purtroppo solo la Ducati, però c'è stato un florilegio di marche attorno alle quali è vissuto poi alcune centinaia di produttori di componenti, quindi un vero e proprio substrato produttivo che è unico in Italia. In questa ultima tornata espositiva presentiamo il decennio dal 50 al 60, che è il momento in cui, uscita dalla guerra, riprende l'economia nazionale e anche quindi l'economia locale con la produzione motociclistica come uno dei settori trainanti. Insomma, dopo i periodi bui, insomma, dell'immediato dopoguerra, comincia dal punto di vista economico delle famiglie, migliora il loro tenore di vita e quindi ecco che anche la motociclistica comincia a presentare moto interessanti e un numero veramente ampio anche di modelli a disposizione degli appassionati dell'epoca e soprattutto anche delle persone che hanno bisogno di muoversi, cioè muoversi con una moto di piccola, media cilindrata diventa una cosa abbastanza alla portata di molte fasce della popolazione ed ecco che le industrie locali producono molto, con c'è anche eccessiva varietà di modelli. Noi presentiamo 32 moto di ben 18 marche diverse. In questo decennio sono una cinquantina le marche bolognesi che producono moto finite. Sono moto molto curate, belle, noi ne abbiamo di due tipi, quelle conservate e quelle rimesse a nuovo, restaurate in maniera con molta passione da parte dei collezionisti. Non esistono collezioni pubbliche di moto, il collezionismo le ha salvate dall'abbandono e va dato atto insomma a queste persone di una grande perseveranza e di amore rispetto a questo tipo di oggetti. Certo, l'amore per la moto ha permesso poi di poter allestire una mostra come questa, che è partita appunto da questa affezione dei privati collezionisti che hanno conservato religiosamente. Religiosamente, proprio così. Infatti.